camminerò, tanto che poi i piedi mi faranno male. Io camminerò un'altra volta e a tutti io domani. Les larmes de celui qui part.